Buonasera a tutti, vi do il benvenuto. Grazie mille, sì. Mi raccomando sempre l'uso del microfono, questa è la prima che... Bisogna usarlo, sì. Buonasera, benvenuti tutti quanti, vi ringrazio di essere così numerosi e ringrazio i nostri ospiti di questa sera, il professor Firmani, che è un professore universitario di matematica, è con noi per la parte del dialogo intorno all'infinito, così come abbiamo intitolato questi incontri, e ci esporrà appunto il punto di vista squisitamente matematico. Con noi c'è anche il professor Mauro Nobile dell'Università di Trento, che invece si occuperà della parte squisitamente matematica in mezzo, cioè Paolo Mazzucato della RAI. Infatti queste sono due iniziative che abbiamo così pensato e concepito in collaborazione con la Federa di Bolzano e farà da moderatore. È la seconda puntata, la settimana scorsa abbiamo avuto come ospiti Don Paolo Renner e la dottoressa Federica Malfatti, che ci hanno introdotto a questa avventura da un punto di vista teologico e filosofico, e proseguiremo poi durante questo anno 2017 anche con altre iniziative sempre dedicate a questo tema e con un taglio più fisico, e forse torneremo ancora all'aspetto filosofico. Insomma, è tutto un mondo che vorremmo continuare a coltivare, perché la biblioteca provinciale è una biblioteca che non solo si occupa di memorialistica e di storia, ma sta anche raccogliendo libri di carattere scientifico e quindi anche filosofico. Abbiamo portato qui alcuni esempi di quello che possiamo offrire alla cittadinanza, e siamo molto contenti se qualcuno poi verrà a trovarci e approfondirà questi temi che stasera verranno affrontati e verrà solidificata la vostra curiosità nell'ambito della personale conoscenza riguardo all'infinito. Non dico altro, vi ricordo solamente l'appuntamento di domani. Giovedì non ci sarà niente, ma domani torneremo qui sempre alle ore 18 in questa sala con un libro del professor Dorilla, l'ultimo libro, che parla di 5.000 anni di effetto placebo. Quindi abbiamo due appuntamenti molto ravvicinati, vista poi una pausa legata alle festività prossime. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi. Allora, grazie Valeria Trevisan della Biblioteca Claudio Augusta, che ha pensato appunto di radunare, dopo la prima puntata in cui abbiamo scherzato un po' sull'incontro, scontro tra teologia e filosofia, questa sera facciamo incontrare per dialogare tra di loro un matematico che sicuramente con l'infinito ha a che fare, magari non tematicamente, però utilizzando l'infinito, l'abbiamo detto in qualche modo anche la scorsa settimana, ed un filosofo come il professor Mauro Nobile, entrambi da scienziati, perché sia la filosofia che la matematica sono due scienze, hanno pensato di dare in apertura di questa conversazione una sorta di piccolo quadro, fare una sorta di profilo, un ritratto dell'infinito nelle rispettive discipline. A partire da questo ritratto, da questa prospettiva, poi ci sarà un momento per confrontarsi tra di loro. E la parola che lascerei all'inizio è al professor Mauro Nobile, anche perché forse, non me ne vorrà il professor Firmani, i primi matematici erano anche filosofi, o viceversa, i primi filosofi hanno iniziato a maneggiare, insomma, strumenti che sono propri della matematica. Non ne citiamo alcuni, ne citerà sicuramente alcuni il professor Nobile. Allora vorrei che fosse lui ad aprire in qualche modo questa sorta di identikit filosofico della parola e del concetto di infinito, in un quadro che un po' ci orienterà in quello che poi sarà la discussione. Uso questo? Sì. Allora. Grazie, sì. Ma insomma, la domanda di partenza che ho immaginato potrebbe essere... La domanda di partenza che ho pensato potrebbe essere appunto questa, cioè, visto che oggi è di turno insieme alla matematica e alla filosofia, che rapporto ha intrattenuto o intrattiene ancora oggi la filosofia con la tematica dell'infinito? E, ovviamente, è utile dire, si tratta di un terreno molto vasto e anche, devo dire, molto impervio. Per cominciare a dissodarlo un po', credo che la risposta si possa articolare su due piani, se volete. Uno di taglio un po' più storico e l'altro di taglio più teoretico, se volete. Quello storico parte da questa, riguarda questa osservazione, fatto che il rovello. Sì, lo devo portarlo davanti. Ma se no io posso tenere in mano. Anche meglio. Il rovello dell'infinito, il rovello, quello che potremmo chiamare il rovello dell'infinito, ha attraversato, possiamo dire, tutto lo sviluppo del pensiero occidentale. Al quale io qui in via esclusiva mi riferirò per problemi di incompetenza. E questo fin dai suoi primissimi inizi. Se è vero che alcuni dicono complice un equivoco millenario, è stata la tesi di uno studioso che si chiamava Semeraro, il primo frammento al quale tradizionalmente fa riferimento la filosofia occidentale come parola autentica e non semplicemente una testimonianza su filosofi di un filosofo dell'Occidente è stato e cioè Anassimandro. Ecco, il primo frammento contiene appunto il famosissimo riferimento al questo termine apeiron, che sarebbe costituito appunto da un alfa privativo, quindi che indica una negazione, non in, e pera, peras, che indica appunto il limite, il confine, e quindi l'illimitato, l'infinito. Possibile equivoco, Semeraro è stato uno studioso in particolare di lingue accadiche, semitiche, e ha ritenuto, in un libro che è stato pubblicato in italiano anche da Bruno Mondadori, intitolato appunto L'infinito, un equivoco millenario, che non questo fosse il termine usato in realtà da Anassimandro, cioè il termine in realtà è lo stesso, ma in un'altra accezione, che ricorre anche come etero, che significa polvere, terra, quindi non un termine che indica la mancanza di limite, illimitato, ma l'aperon sarebbe la polvere, la terra. E il frammento di Anassimandro delinea il cammino degli enti che nascono dall'Aperon, hanno il loro tragitto di vita per poi finire. Polvere sei e polvere ritornerà, no? In un certo senso. Semeraro stesso poi osserva che in realtà anche il termine, diciamo così, la famiglia di termini biblici, afar per esempio, semitici, apar, l'accadico eperu, che ricorre anche in ufer per esempio, cioè la riva, no? La terra che segna il confine, contiene anche nel mondo biblico un riferimento alla, diciamo così, alla dimensione dell'innumerevole, dell'infinito. Farò della tua discendenza polvere, nel senso che avrai tantissimi discendenti, no? Quindi diciamo così, equivoco, dice lui, equivoco certamente fecondo. Quello che forse si potrebbe anche dire è che forse il buon Anassimandro era consapevole di questa possibile ambivalenza semantica e che l'ha utilizzata volutamente. No, quindi l'illimitato, la polvere da cui tutto si forma, da cui tutto, l'informe da cui le cose prendono forma, e prendono forma nel senso che assumono un limite appunto, sia come sia, diciamo così, è attraverso questo frammento che il motivo dell'infinito fa il suo ingresso nel lessico della filosofia occidentale per, si può dire, non uscirne mai più, e inaugura così una storia di cui forse questa sera avremo modo, in maniera anche un po' rapida, di indicare alcuni momenti, alcuni passaggi. L'altra osservazione è di tipo, se volete, un po' più teorico, un pochino più concettuale. Per introdurla però avrei bisogno di un giro un pochino più largo, e cioè partire da questa osservazione che di per sé è molto elementare, cioè dire, quando noi ci riferiamo a qualcosa, lo nominiamo, lo descriviamo, lo pensiamo, lo percepiamo, in qualsiasi modo avvenga il portarsi della mente o del discorso presso qualcosa, appunto questo riferirsi, il contenuto a cui noi ci riferiamo intanto può essere nominato, descritto, eccetera, in quanto sia preliminarmente distinto da altre. Questa sembra una cosa molto elementare, ma se uno poi ci indugia un pochino sopra, è carica di interessanti conseguenze. Cioè dire, non è possibile identificare alcunché se non vincolandosi all'impiego di una qualche forma di distinzione, uno schema di tipo differenziale, cioè questo, ma questo e non altro, perché non altro? Perché dico questo? Perché questa, diciamo così, osservazione molto probabilmente ha alimentato larghissima parte della sensibilità della filosofia occidentale. Cioè, fin dall'inizio, in un certo senso, la filosofia si è specializzata nell'osservazione delle cose, degli enti, degli esseri che sono in realtà sotto gli occhi di tutti, ma tenendo sempre anche d'occhio contemporaneamente il tipo di distinzioni di cui si fa uso per riferirsi a queste cose. E quindi la cosa e lo schema utilizzato per riferirsi ad essa. Schema che è uno schema di tipo appunto differenziale. Cioè porta in primo piano qualcosa grazie al fatto che altro, concomitante, rimane però sullo sfondo, in una posizione di latenza. Cioè pensare e parlare è sempre articolare inevitabilmente questa dicotomia di presenza e latenza. E quindi, diciamo così, ciò con cui abbiamo a che fare non sono mai semplicemente le cose, ma anche sempre anche l'altro che di volta in volta escludiamo. Escludiamo temporaneamente. E infatti la filosofia occidentale si è sviluppata in larga parte per dicotomie. Una di queste dicotomie, ecco, è appunto quella finito-infinito. Finito-infinito. Dico questo perché allora il tema del diciamo così, o la prospettiva dalla quale vorrei affrontare il tema dell'infinito non è tanto quella che ci porta in prima battuta a chiederci, a porci domande del tipo esiste l'infinito o che cos'è l'infinito, ma in che modo il pensiero filosofico, il pensiero matematico, il pensiero religioso ha fatto uso della differenza di finito e infinito. Per esempio, dando priorità a che cosa? Al finito sull'infinito o all'infinito sul finito? Oppure in che senso ha utilizzato quella negazione che è presente in quel A dell'Aperon, l'in dell'infinito? E cioè l'infinito come negazione del finito o il finito come negazione dell'infinito? Per esempio, Cartesio introdurrà una grande scuola nel momento in cui dirà che l'idea chiara e distinta è l'idea di infinito e che la grammatica, che il lessico inganna, diciamo così, perché il puro positivo è l'infinito, anche se viene nominato attraverso una parolina che contiene una negazione, e caratterizzato dalla negazione è infinito. Infinito è una limitazione dell'infinito, è una negazione. E questo è un primo aspetto. L'attenzione dunque la farei convergere sull'impiego delle distinzioni. Ho un minuto, 5 minuti ancora? Sì? 5 minuti. Perfetto. Adesso c'è un ulteriore passaggio, un'ulteriore piccola complicazione che però mostra come quando diciamo così, si prova ad osservare non direttamente le cose, ma le distinzioni a partire dalle quali noi ci riferiamo ad esse, poi si fanno delle scoperte anche interessanti. Esistono cioè delle distinzioni, non sono tutte, ma esistono delle distinzioni le quali possono essere fatte funzionare anche così, cioè possono essere fatte rientrare, possono essere iterate, ripetute, all'interno di uno dei due distinti che si distinguono. Per esempio, prendiamo una classica distinzione che ricorre in filosofia, la distinzione fra soggetto e oggetto. Soggetto e oggetto, io sono il soggetto, qui ci sono gli oggetti. Però poi si può dire che solo il soggetto è in grado di distinguere fra soggetto e oggetto. Gli oggetti non possono introdurre dentro di sé o non possono utilizzare la distinzione di soggetto e oggetto. Cioè la distinzione di soggetto-oggetto viene fatta rientrare in questo modo all'interno del cono del soggetto. E una distinzione siffatta è anche la distinzione finito-infinito. Cioè ci sono pensatori che hanno introdotto o reintrodotto, iterato, la distinzione finito-infinito all'interno del finito. E così si sono messi in condizione di parlare di un finito finito e di un finito infinito. Altri pensatori hanno fatto rientrare la distinzione finito infinito dentro l'infinito e si sono messi in condizioni così di parlare di un infinito finito e di un infinito infinito. Vedete che qui comincia a nascere una combinatoria, una serie di caselle logiche che di per sé non immediatamente si lasciano riempire con dei contenuti di esperienza o con dei contenuti concettuali, però sono aperti a questo. Allora, non so se ho tempo di percorrere tutti, ma faccio qualche esempio per capire. Partiamo dalla prima dicotomia. Si può parlare di un finito finito. Guardate che questa cosa ci è estremamente comune e ordinaria, perché è in larga parte il modo in cui noi, è uno dei modi semplici in cui noi organizziamo la nostra esperienza nel mondo. Cioè prendiamo un qualche intero, ad esempio questa stanza, che è una stanza all'interno di un intero più grande che è questo edificio, e stanza che contiene a sua volta al suo interno delle altre parti, per esempio delle sedie. Queste parti sono parti finite. Sono parti finite perché ognuna ha un proprio limite che lascia fuori di sé altro, per esempio altre sedie. E con questa coppia di termini noi ci orientiamo abbastanza bene, cioè se io dico portatemi una sedia, per esempio, è possibile che mi portino una sedia, è possibile anche che qualcuno decida di portarmi una confezione IKEA con una sedia smontata nelle sue parti. Sospettiamo che c'è all'opera un equivoco, però credo che si possa capire che è un equivoco ancora, diciamo così, plausibile, che ha un suo minimo. Ben diversa sarebbe la cosa se uno mi portasse una sedia con le parti in legno ulteriormente sminuzzate, per esempio ridotte a segatura. Allora qui non. E diciamo così, nel livello di realtà in cui ci muoviamo, la distinzione parte tutto sembra funzionare abbastanza bene, ma il tutto è un tutto finito: la sedia, la stanza, l'edificio e così via. E vediamo cosa succede invece, o a quali possibilità ci apre l'ipotesi di un finito infinito. Nel primo caso sembrava esserci una tautologia, nel secondo caso sembra affiorare una contraddizione, no? Tautologia e contraddizione, quasi due stazioni del pensiero, nel senso che il pensiero che approda lì tende a bloccarsi, a cercare di aver bisogno di uscirne. È possibile pensare a un finito infinito? Beh sì, e qui il pensiero antico ha già fornito indicazioni formidabili. Qualcuno di voi ricorderà i paradossi di Zenone, che vengono a Zenone e che lui utilizza in chiave di confutazione filosofica, ma che gli venivano dalla matematica. Allora uno di questi su uno di questi è costruito quell'argomento che Zenone, viene etichettato come l'argomento della dicotomia. Come funziona questo argomento? Zenone di Elea era l'allievo di Parmenide, e questi paradossi dovevano servire per confutare i confutatori, gli avversari di Parmenide. Allora, l'argomento della dicotomia funziona un pochino così. Supponiamo che ci sia una distanza fra un luogo A e un luogo B. Questa distanza è evidentemente una distanza finita. Quindi ci muoviamo, la premessa è infinita. Supponiamo di essere, diciamo così, con un esperimento di pensiero, di doverci spostare da A a B. L'argomento di Zenone dice: prima di raggiungere B, devi percorrere metà strada, ma prima di percorrere metà strada devi aver percorso la metà della metà, e poi la metà della metà, quindi un mezzo, un quarto, un totale. eccetera, eccetera, eccetera. E così via, appunto, all'infinito. Allora noi abbiamo qui un caso di finito, uno spazio chiuso, limitato, all'interno del quale diventa pensabile l'esplodere dell'infinito. Si può essere convinti o meno dell'argomento di Zenone, resta il fatto che quella casella logica, quella possibilità logica, è stata però riempita. E guardate che è stata riempita non solo sul piano logico-matematico. Io adesso non lo posso fare, semmai lo rimandiamo alla discussione, a qualche domanda, ma anche sul piano etico. Per esempio, se si va a vedere come gli antichi hanno pensato quello che chiamano il fine ultimo della condotta umana, in generale della vita, come sequenza di azioni, il nome lo conoscete, no? Il bene in sé, l'eudaimonia, la felicità. Bene, è sempre stato pensato come un limite, un confine intrascendibile. Cioè, la felicità è quel fine che, a differenza di altri fini dell'azione, non può essere trasceso in vista di un fine ulteriore. È fine ultimo. Allora, da un lato c'è la nostra intenzione, il nostro desiderio di agire, c'è un elemento dell'iniziativa, dall'altro c'è un fine da raggiungere, e in mezzo c'è uno spazio, Aristotele lo dice, aoristo, cioè di indeterminatezza, che si tratta di colmare. Se vogliamo che la nostra azione vada a buon fine. Allora, come vedete, anche qui, in questo aoristo, in questo elemento di indeterminatezza, c'è una caratteristica che è fondamentale nell'infinito, come l'hanno pensato i greci. Appunto, la difficoltà di misurarlo, la difficoltà di ricondurlo a ragione. L'indeterminato è di per sé alogo. Completo, o comunque aggiungo un altro tassello. Spostiamoci adesso sull'altro lato della distinzione, cioè sul corno dell'infinito. Sul corno dell'infinito. E introduciamo nel corno dell'infinito la distinzione da capo di finito infinito. A questo punto diventa possibile parlare di un infinito finito, dicevo prima, e di un infinito infinito. Cosa possono voler dire queste cose? A cosa possono applicarsi? Infinito finito. Infinito finito vuol dire siamo già sul terreno dell'infinito. Diamolo per acquisito. Ci troviamo all'interno di una dimensione di infinitezza, al cui interno possiamo trovare delle determinazioni finite. Esempio, per non andare troppo lontano, l'insieme dei numeri naturali, insieme infinito. E il finito è il numero al quale io di volta in volta arrivo attraverso l'operazione del contare. Però il legame tra finito e infinito qui non è un legame estrinseco, è in qualche modo un legame intrinseco, cioè fa parte del senso di ogni numero a cui io arrivo nell'operazione del contare il fatto che esso abbia un successore. Cioè ogni numero rinvia oltre di sé al suo successore. Ogni ultimo numero, da questo punto di vista, è sempre un penultimo, non è mai veramente l'ultimo. Allora qui viene da pensare, perché di volta in volta, dato che cos'è? È il numero finito al quale io sono arrivato. Ma in qualche modo, evidentemente, dato è anche l'infinito, la serie dei numeri naturali che io, avendo un po' di tempo a disposizione, sto cercando di percorrere. Però non è data nel senso che viene, che è attualmente percorsa. Come pensare allora il darsi di questo tipo di infinito per non confonderlo con il darsi del 5, del 6, del 7 a cui io concretamente, o il metro, due metri, tre metri, a cui io concretamente sono arrivato? L'infinito in un certo senso è, dice Aristotele, e in un altro senso non è. Paradosso. Come si esce da un paradosso? Beh, una strategia è immettere una distinzione che asimmetrizza il paradosso. E qui la trovata geniale di Aristotele, la distinzione non fra due esseri, fra due entità, ma fra due diversi modi d'essere, un modo d'essere in potenza e un modo d'essere in atto. E allora Aristotele, nella fisica, introduce qui la differenza fra un infinito che per il finito è dato in modo potenziale, è una possibilità, no, di avanzare operando. L'infinito, si tratta di un infinito che come tale non sarà mai dato pienamente, no? In questo senso è diverso dal finito che può essere dato pienamente, può essere pienamente in atto, no? È l'infinito che si dà come possibilità di aggiungere sempre di nuovo uno più uno più uno più uno, eccetera. Alcuni, il termine terribile ma circola, parlano anche di un infinito per eccetterazione. Eccetterazione. E l'ultimissimo, come c'è un infinito in potenza, potrebbe esserci un infinito in atto. Cioè un infinito infinito. Un infinito che non si dà come possibilità, ma è pienamente attualizzato. Aristotele si ritrae da questo, quasi da pensare con sgomento. In Aristotele c'è una grande fedeltà alla finitezza, anche se lui sa bene che dobbiamo dare cittadinanza al concetto di infinito, perché il tempo ha una sua infinità, i numeri sono infiniti e così via. Ma si ritrae sul terreno dell'infinito potenziale. Ma esiste, o meglio, esiste la possibilità logica di parlare anche di un infinito, di un infinito infinito, di un infinito attuale, pienamente attuato, che non ha bisogno di ulteriori aggiunte. E anche qui ci sono delle possibilità di sviluppo interessanti, perché un infinito si fatto è un infinito che è, ecco un altro caso di reingresso, è in grado, per così dire, di mappare se stesso al proprio interno. All'interno, l'infinito in atto può albergare dentro di sé un altro infinito, anzi, una pluralità di infiniti, anzi, potenzialmente una infinità di infiniti. E c'è un passo della fisica in cui Aristotele intravede questo pensiero, ma come detto, vi si ritrae. Agli inizi del 600, Galilei farà un esempio matematico che darà, per così dire, renderà intuitivo questo pensiero. Si accorge che è possibile stabilire una corrispondenza univoca fra ciascun, oggi diremmo, qui vado in terra incognita, fra ciascun elemento dell'insieme dei numeri naturali, e ciascun elemento, ad esempio, dell'insieme dei numeri pari, che è un sottoinsieme dell'insieme dei numeri naturali. E quando fra gli elementi di due insiemi io posso stabilire una corrispondenza univoca, vuol dire che questi due insiemi hanno un credo uguale numero di elementi. Quindi l'insieme dei numeri naturali ha lo stesso numero di elementi, cioè infiniti, di una sua parte, l'insieme dei numeri pari, un insieme di numeri bisimi, dentro l'infinito una infinità di altri infiniti. Ma a questo punto posso ancora continuare a parlare di parte e di tutto? Vi ricordate la distinzione dalla quale ho preso le mosse? Ci sono distinzioni che in qualche modo prendono vita e anche attraverso meccanismi di autoapplicazione proliferano e schiudono spazi logici. Ci sono situazioni in cui le distinzioni in uso improvvisamente ci accorgiamo che collassano. Quando abbiamo a che fare con insiemi infiniti, la distinzione fra parte e tutto sembra quantomeno scritturale. Mi fermerei qua. Io farei un applauso, perché siamo entrati un po' cioè, devo dire, di definizioni. La cosa che perlomeno è certa è che questo tipo di riflessione ci porta appunto in una vertigine, però quello che è consolante è che questa vertigine po' perlomeno abbiamo accesso, e quindi un po' la possiamo concepire e magari giocarci con il pensiero, come abbiamo appena ascoltato anche attraverso le riflessioni della storia della filosofia. Voglio chiedere subito al matematico Bruno Firmani se questo tipo di conversazione prima di tutto le è piaciuta e se le sembrava aliena dal lavoro con cui lei invece ha a che fare in quanto matematico. Peraltro prima il professor Nobile, parlando di una forma di infinito, ha forse gli è sfuggito, l'ha usata scientemente la parola innumerevole, è quasi inevitabile ritornare dentro il ventre della matematica, anche il ventre della matematica entrando in questo tema. Prima impressione di questo tipo di dialogo? Dunque, allora, parliamo di Zenone. Qui era suo agio. Allora, era un assist. Sì. Dunque, matematici distinguono fra infinito e illimitato. Sono due cose diversissime. L'infinito è infinito, cioè contandoli gli oggetti non finiscono mai. Illimitato invece è qualcosa che non è, diciamo, racchiudibile in un cerchio, in una sfera, in qualche cosa. Illimitato. Allora, ad esempio, il paradosso di Zenone, riparlerò anche di Zenone perché è stato spiritosissimo. Allora, facciamo un esempio: prendiamo un bastone di una certa lunghezza e supponiamo di avere molto tempo a disposizione, di essere abilissimi a fare dei tagli netti senza truccioli. Io prendo un bastone e lo divido a metà, poi prendo una metà e ho due pezzi, prendo un secondo pezzo e lo divido a metà, poi l'ultima parte la ridivido a metà, e così vado avanti dividendo sempre a metà. A operazione conclusa, domanda: quanto tempo mi ci vuole per effettuare l'operazione? Rispondo dopo. A operazione conclusa avrò infiniti bastoni, metà, poi un quarto, poi un ottavo, infiniti bastoni piccoli. Ma la lunghezza totale di tutti questi bastoni, quanto è lunga? Sono infiniti bastoncini che diventano sempre più piccoli, ma sommando tutte le lunghezze e rimettendo tutti attaccati, che lunghezza ottengo? Esattamente quella di prima. Allora non è detto che infiniti pezzi siano qualcosa di immenso, possono essere infiniti pezzi piccolini che ce l'hanno una cosa piccola. Infinito. Quindi bisogna distinguere fra l'infinito e illimitato o illimitato. Dobbiamo distinguere un po' questi due concetti, insomma. Ad esempio, una seggiola è composta da tanti oggetti piccolissimi che si possono chiamare molecole, atomi, oppure da infiniti pezzi infinitesimi. Se un ingegnere dovesse fare i conti strutturali, direbbe, modellerebbe la seggiola come un telaio con dei pezzi continui, quindi con infiniti oggetti infinitesimi. Nella realtà sono un numero grandissimo di molecole, ma sono oggetti finiti e sono tanti. Si possono anche contare approssimativamente, insomma, pesandole, eccetera. Ecco. Quindi non distinguere se sono tanti pezzi piccolini, ma piccoli ma tantissimi, oppure oggetti infinitesimi ma infiniti. La realtà com'è? Tanti pezzettini piccolissimi. Se noi parliamo di infiniti oggetti infinitesimi, compiamo un'astrazione intellettuale, non è la realtà. Ah, vogliamo ragionare della realtà o dei nostri modelli intellettuali, che possiamo anche chiamare matematici? Ecco, sono due impostazioni diverse. Per fare i conti per gli ingegneri è migliore l'impostazione matematica, che però non è reale. Perché in realtà è non solo con tante molecole, ma anche con le impurità, con tutti i difetti di costruzione, eccetera. E quindi sono due aspetti, quello teorico, bellissimo, perfetto, e quello pratico, che è quello che è con quale si devono fare i conti. Allora, le giro la domanda. Il fatto che la serie numerica, sì, che qui uso un linguaggio che lei mi perdonerà, è potenzialmente infinita. Da matematico la interessa, la inquieta o non riguarda l'operatività di quello che lei fa? Le serie sono le serie, cose bellissime, non c'è dubbio. Le serie. Poi ci sono le serie che convergono, le serie che divergono, cioè vanno all'infinito, e tante altre cose che non sto a distinguere. A noi le serie piacciono tutte, quelle che preferiamo sono quelle che convergono, cioè che danno una somma finita, sono le nostre preferite, però ci piacciono tutte. Cos'è una serie che converge e dà una somma finita? Non so se si può spiegare in quali termini. Un esempio. Una serie che converge nella somma finita, i pezzettini, le lunghezze dei pezzettini di legno, uno, un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, dà come somma due, ma sono infiniti i pezzettini. Però i matematici non è che l'hanno trascurato il tema dell'infinito, anzi lei dice che a un certo punto nell'evoluzione della matematica, che comunque deve tantissimo a queste prime speculazioni, anche all'inquadratura che il professor Nobile ha dato, è nato un concetto nuovo di infinito, anche relativamente recente nella storia. Sì, bisogna dire che... bisogna dire che a un certo punto è stata una rivoluzione nella matematica, e il geniaccio infinito che ha inventato questa cosa è stato perseguitato addirittura, è morto in un manicomio frustrato, disperato, perché nessuno capiva quello che dicevano, che erano invece cose molto difficili, questo concetto della corrispondenza di univoca, dei numeri pari, che sono tanti quanti numeri dispari, che sono tanti quanti numeri primi, sono concetti che hanno fatto fare all'umanità un salto gigantesco dal punto di vista intellettuale, ma sono cose molto sottili, e per capirle, per digerirle, l'umanità ha impiegato molto tempo. Dice della persecuzione, io devo richiamare in causa il professor Nobile, perché non solo i matematici sono stati perseguitati o perseguiti per il fatto di sostenere l'infinità. Ce n'è uno che ha una piazza dedicata a Roma, che proprio per questa ragione è stato arso su Roma. Anche per questa ragione, sì, Giordano Bruno ovviamente. Cantor, Giorgio Cantor. Non ti ho detto il numero. Che difendeva l'ipotesi dell'infinito attuale, cioè l'infinito da matematico. Da matematico. In qualche modo in matematica ha occupato quella quarta casellina qui, la cui logica, la cui alludevo prima. E di cui fa parlare di Giordano Bruno. Ma se vuoi, brevemente, no, così poi diciamo dall'infinito. La metterei così. Si potrebbe a questo punto porre una serie di ulteriori domande, alcune sono quelle che vi dicevo prima, cioè andando a vedere come la filosofia occidentale ha utilizzato la distinzione finito-infinito, ci accorgiamo appunto che ci sono, e questo appartiene soprattutto al pensiero antico, situazioni di pensiero in cui si deve parlare di un primato del finito rispetto all'infinito, cioè l'infinito... è l'immenso, è ciò che appunto la mens non è in grado di misurare, no? Mensura. E quindi è Alogon, dicevo prima, cioè il logos non è in grado di catturarlo. Sembra, ma forse c'è qualcosa di aneddotico in questo, che il problema sia esploso all'interno della scuola pitagorica, che pensava appunto ai numeri come principi dell'essere, quindi anche come principi di intelligibilità dell'essere, e poi frequentando i numeri e le figure geometriche scoprono appunto che il rapporto fra il lato del quadrato e la diagonale è un numero che non si finisce mai di calcolare, radice di 2, no? E lì la mente va non solo in affanno, ma si sente messa in scacco, no? Cioè il numero, quel numero che doveva essere principio di intelligibilità, rivela improvvisamente il lato della incomprensibilità. Diciamo che nella cultura occidentale il primato dell'infinito lo dico a spanne, ma insomma entra con un grande potere di seduzione in larga parte attraverso la tradizione giudaica da un lato e cristiana dall'altro, in particolare quando l'infinito diventa un attributo di Dio, e quindi il rapporto tra infinito e finito serve per pensare la differenza creaturale, la differenza tra creatore e creatura, con un primato evidentemente del creatore sulla creatura, visto che la creatura dipende dal potere e dalla volontà infinita del creatore. E qui voi capite che il paesaggio cambia radicalmente. Una modulazione di questo, per certi aspetti, è Giordano Bruno. Perché, diciamo così, l'infinitizzazione del cosmo, che lui inaugura, la inaugura non tanto da astronomo, ma per certi aspetti da teologo. Cioè, lui è alla ricerca di un pensiero che sia adeguato all'evento della creazione, e cioè che sia all'altezza di Dio. E allora formula l'idea che solo un tipo di creazione è all'altezza dell'infinito, la creazione in cui il creatore si esaurisce per intero nella creatura. In tedesco viene bene, perché si può qui non è tedesco, ma insomma si può parlare di Schöpfung, creazione, come Ausschöpfung, cioè nel creare Dio si esaurisce nella creazione. Allora che cosa succede? Che la natura assume caratteri divini, e si può parlare di una natura divinizzata o di un Dio naturalizzato, eh? E il primo, tra i primi attributi che a questo punto vanno assegnati alla natura, c'è, se si parte da questa premessa, l'attributo dell'infinità. Cioè l'universo è infinito per ragioni teologiche prima ancora che astronomiche. Guardate che questo è, d'accordo, lo hanno messo a rogo, forse non solo per questo, eccetera eccetera, ma è un pensiero che ha deve essere stato davvero sconvolgente. Pensate al caso di Keplero, che ha rivoluzionato l'astronomia tradizionale da tantissimi punti di vista, ha eliminato l'idea delle sfere che permettono ai pianeti, agli astri incastonati su di esse di ruotare, ha immaginato che le orbite fossero ellittiche, che il Sole non occupasse una posizione centrale ma lievemente decentrata, uno dei fuochi delle linee. Ma ancora Keplero ha tenuto fermo all'idea che il cosmo dovesse essere un cosmo finito, e in un credo, se non ricordo male, in una lettera con Galilei, commentando, se ricordo bene, le scoperte del Sidereus Nuncius, continuava a parlare della tunica mundi, cioè l'idea che il mondo fosse avvolto da una tunica, ecco, Giordano Bruno squarcia i cieli da questo punto di vista, ma è interessante vedere come lo faccia attraverso la teologia. Invece la trovata geniale di Cantor qual è stata? Sì, poi ritorneremo sulla teologia, precisate. Però prima è meglio parlare di infinito, perché così si capisce meglio tecnicamente il problema. Allora, dunque, attenzione quando si parla di infinito, perché entriamo in un campo sconosciuto che ci sfugge e possiamo avere molti risultati inaspettati. Permettetemi qualche piccola citazione. Leopardi, la sua poesia di infinito, dove dice questa immensità, insomma, questa immagine, ma un'immagine ovviamente poetica. Kant, dove dice appunto due cose che poi la mia, cielo stellato che posta sopra, sotto, sono tutte le parti, insomma si vede solo di notte ma c'è anche di giorno, e poi la legge morale in me, e su quello c'è moltissimo a discutere, perché tutti gli studi che sono fatti dopo, insomma, vanno a televisione. Comunque lui, ecco, cioè la seconda comincia così, è una vera infinitezza, quindi questa idea dell'infinito così, insomma, che emotivo un po' così, insomma, che sorprende. E poi mi piace molto citare David Hilbert, un grandissimo matematico, per dire solo una cosa: lui ha riscritto l'assiomatica di Euclide, cioè Euclide ha fatto 5 postulati per la geometria, in realtà erano fortemente legati al suo tempo, poi con i secoli, i millenni si è visto che erano un po' inconsistenti, erano formulati in maniera rigorosa, Hilbert li ha ridefiniti in maniera molto rigorosa, diventano complicatissimi, però diciamo sono rigorosi dal punto di vista intellettuale. Per quello che può essere rigorosa la matematica, se ci sarà tempo ne parleremo. Ed è fine Lutero, delizioso forse, dove dice la medicina crea persone malate, la matematica persone tristi e la teologia peccatori. Io non sono d'accordo con Lutero, perché la matematica non crea persone tristi. La teologia chiede al professor Nobile. Sì, perché si inventa i peccati. Dunque, la matematica, vedete, qui Galileo dice che la filosofia intendeva la scienza naturale. Dice quando parla dell'universo, è scritto in lingua matematica, cioè la matematica come alfabeto della natura, per capire la natura. Questo ci sono qui, ad esempio, anche delle molecole, delle cose. Cioè, la matematica è il modo per leggere la natura, cioè come è fatta, come funziona, qual è il futuro della meteorologia, delle eclissi, qual è il passato, il Big Bang, che è molto diverso dalla creazione. Ecco, la matematica dà queste spiegazioni, questo è il punto fondamentale. Poi Cantor, che ha fatto vedere risultati incredibili, quali parlavo tra poco, e Hilbert, sempre lui, che dice: dal paradiso che Cantor ha creato per noi, nessuno potrà mandarci via, capite? Nessuno. Quindi ormai siamo entrati in un mondo e ci rimarremo, perché è così bello che da quale quindi non andremo mai via, insomma. E poi questa citazione di Bertrand Russell, cioè, matematica è una scienza nella quale non si sa di cosa si parla e non si sa se le affermazioni che vi si fanno sono vere o false. È il contrario di dire la matematica non è un'opinione. Tutti dicono matematica, ma invece non è vero, la matematica è un'opinione. Perché un'opinione è dare le definizioni del numero 1, del numero 2, del numero 3 e così via. Non esistono in natura, sono definizioni umane, insomma. E sulla base di queste definizioni prime vuol dire tutto il resto. Ma le definizioni a monte, le prime definizioni, sono accettate dal mondo, insomma. E poi la matematica, al pari della giurisprudenza e della filosofia, io ci metterei anche la teologia, è creata dall'uomo. Non esiste in natura la matematica, in natura esistono la filosofia, la chimica, perché sono le reazioni naturali tra gli elementi. La matematica no, la matematica l'ha creata l'uomo per cercare di interpretare la natura. E passiamo un attimo agli infiniti. Allora, dire un matematico di parlare dell'infinito è come dire a un ubriacone di andare in cantina, è una gioia immensa, perché il matematico vive nell'infinito. Una retta ha infiniti punti, sono infinite le rette del piano, ci sono i limiti infiniti, c'è tutto che è infinito in matematica, le dimensioni di certi spazi, ecco. Quindi il matematico vive immerso in un infinito, insomma, e questa è poi la sua gioia. Se dicessero no, basta, adesso i punti sono solo 8, cioè, in quale punto mi metto io? Come faccio? Cosa succede, insomma? Come faccio a tirare una retta a 9 punti se non passa per gli altri 8? Insomma, per il matematico sarebbe scioccante non vivere in un mondo infinito, proprio come il pesce nell'acqua, insomma, ecco, proprio, è l'ambiente naturale. Cominciamo a parlare di un altro paradosso di Zenone, famoso, Achille la tartaruga. Allora, ogni riga è un tempo. Allora, all'inizio c'è Achille che sta fermo e, dato che è un piede veloce, ha dato un margine di vantaggio alla tartaruga. Il mossiere spara un colpo di pistola, allora avevo già preparato il pistola anche a quei tempi per dare il colpo di addio. Partono, la tartaruga si incammina e va da T1 a T2 e Achille in un certo tempo arriva al posto dove c'era la tartaruga prima, ma nel frattempo quella furgona della tartaruga si è spostata. Achille non si spaventa, continua a correre e arriva al posto dove c'era prima la tartaruga, ma lei nel frattempo è andata avanti. Si ripete la stessa cosa e così sempre. Allora dice Zenone: vedete, Achille non può raggiungere la tartaruga. Ma come non può raggiungere la tartaruga se l'ha raggiunta anche ieri? No, dice, è scritto sui libri, non può raggiungerla. Achille la tartaruga la raggiungerà, sì o no? Allora, sì, la raggiunge. E la raggiunge perché? Perché è vero che ci sono infiniti tempi, però è come con i bastoni di prima. Se infiniti spazi da percorrere, chiedo scusa, ma se i tempi di percorrenza sono molto piccoli, alla fine per percorrere tutto il tempo ci vorrà un tempo finito. E quindi Achille raggiunge la tartaruga. Ma questo ci siamo spiegato noi uomini dopo secoli. Allora, ai tempi di Zenone, 450 a.C., si pensava ancora all'esistenza degli atomi. Allora, se io prendo anche un atomo di idrogeno e li metto insieme, e ne metto insieme 100.000 miliardi di miliardi, alla fine diventa una massa infinita. Cioè, avrà senso ragionare di questi spazi che diventano piccolissimi solo se si rinuncia all'idea dell'atomo. altrimenti non si può, viene tempi infiniti, ed è una contraddizione, perché i numeri piccolissimi, gli spazi piccolissimi, cioè diventano più piccoli di un atomo e non si può più conciliare la cosa. Era un paradosso legato alla sua epoca, che poi i matematici hanno superato introducendo gli infinitesimi. Non so se qualcuno di voi ha visto un po', almeno in una cosa di matematica, conoscono gli infinitesimi, insomma. E quindi c'è tutto il primo passo. Allora, i grandi di questo periodo, il primo George Cantor, purtroppo finito male, Bertrand Russell, grandissimo, vissuto quasi 900 anni, e David Hilbert, l'immenso David Hilbert, insomma, che ha illuminato la matematica per decenni, se non per secoli. E adesso cominciamo a parlare di infinito. Allora, immaginiamo di avere infinite scatole, S1, S2, S3, S4 e così via, con i numeri naturali partendo da 1, e infinite palline, e infinite palline P1, P2, P3 palline. Io ho davanti a me infinite scatole e in mano tengo infinite palline. Mi dicono: metti le palline nelle scatole, fai in modo più naturale, metti una pallina per ogni scatola. E così è, come la pallina P1 a scatola S1, la pallina P2 a scatola S2 e così via. Guarda quanti palline. Ci sono più persone presenti o più posti a sedere? Si vede chiaramente che sono più posti a sedere, perché non c'è nessuna persona in piedi, tutti sono seduti e ci sono delle seggiole vuote. Questo perché? Perché siamo finiti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saranno 80 posti, quindi siamo un numero finito e quindi si vede facilmente. Ma se le palline fossero infinite, le scatole infinite, questo è l'unico modo che abbiamo di mettere le palline dentro le scatole? Ovviamente no. Potrei, ad esempio, fare lo spiritoso, mettere le palline, la prima nella scatola 1, la seconda nella scatola 3, la terza nella scatola 5, cioè mettere solo le palline nelle scatole dispari. Ho finito il lavoro e dico al mio datore di lavoro: ho finito, cioè stupido, hai lasciato quelle vuote, ma ho finito le palline, non ne ho più le palline. E come facciamo? Rimangono scatole scoperte. Oppure potrebbe mettere solo le palline dispari nelle scatole e le pari le tengo in mano. A fine così ho messo tutte le palline nelle scatole e mi sono avanzate queste. Ma perché non le potevi mettere? Ma mi sono avanzate, non so perché. Allora abbiamo tre casi diversi. Prima una pallina per ogni scatola e tutte le palline messe. Poi una pallina solo in alcune scatole e tutte le palline messe. E poi palline che avanzano. Ho tutto questo perché è infinito. Se fosse finito, cioè 30 posti e 30 palline, metto le 30 palline in 30 scatole e finisce là, basta. Non posso mettere due palline in una scatola, altrimenti mi rimarrebbe una scatola vuota. Ma nell'infinito succedono anche queste. Ma come fa lo spiritoso? Lo spiritoso mette due palline in ogni scatola. Riempio tutte le scatole con due palline. Col finito non si può fare, siamo nell'infinito, nell'astrazione, nel piacere, come un romanzo viene inventato, quindi i personaggi possono essere misteriosi, essere come vogliamo perché li plasmiamo, e così questo infinito è un nostro, è frutto della nostra mente e ce lo possiamo giustificare come ci pare. Ma potrei fare ancora di più, potrei mettere la prima pallina nella prima scatola, la seconda pallina della prima scatola, la terza pallina nella seconda scatola, poi comincio, la quarta pallina nella prima, poi una nella seconda, poi una nella terza, e poi comincio, una nella prima, una seconda, la terza con la quarta, poi prima, seconda, terza, quarta, quinta, e così via. Alla fine quale sarà il risultato? Che ho infinite palline in ogni scatola. Così. Oppure potrei fare lo spiritoso, mettere le infinite palline, ma solo nelle scatole dispari. Quindi ho nelle scatole dispari infinite palline, nelle scatole pari neanche una pallina. oppure potrei utilizzare tutto questo per dire che l'infinito che noi ci fingiamo nella mente è declinabile comunque. E infatti quando andiamo nell'infinito usciamo dalle nostre dimensioni, dal nostro pensiero, può succedere di tutto. Potrei mettere solo le palline dispari di tutte le scatole e terremo tutte le palline pari. La mia domanda è questa: ha un senso fare questa operazione? Ha un senso fare questa operazione dal punto di vista intellettuale? Sì, ed è quello che faceva Kant, apposta subito tutti. È solo puro gioco logico, nessuno di noi possederà mai infinite palline, perché se sono consistenti ci vuole infinito spazio, se sono infinite esse diventano più piccole di un atomo e quindi non esistono. Nella realtà queste operazioni non si possono fare, nell'immaginazione sì. Per la matematica questo tipo di esperimenti che utilità ha? Che utilità hanno questi esperimenti? Farci affinare il pensiero. Io per quello lo chiedo perché la fatica che abbiamo fatto cercando di inseguire quello che ci ha detto Mauro Nobile non era molto diversa. Io ho fatto più fatica qui, glielo devo confessare, molto diversa delle palline nella scatola. Io voglio chiedere cosa ha comune a questo tipo di speculazione. Cioè pensiero, che... pensiero umano, pur solo questo, pensiero. D'altronde canto, io sono pazzo, morto il marito, perché gli altri non capivano questi suoi ragionamenti. E dice, ma che sono scemenze, come scemenze? Questa è una rivoluzione incredibile, tant'è vero che su questa sinistica, questa gestione di Cantor, poi è nata, si è sviluppata moltissimo la logica matematica e sulla logica matematica si è innestata poi l'informatica teorica con Turing e così via. Questa è una svolta per il pensiero dell'umanità. Quindi ha avuto una ricaduta concreta. Perché immensa, una ricaduta immensa dal punto di vista intellettuale. Ma perché tu parlavi della ricaduta, no? Allora anche qui il collega citava il caso degli infinitesimali, per esempio, no? Qui siamo in presenza di sviluppi, diciamo anche relativamente recenti, no? Con Cantor siamo alla fine del 800, certo, nei decenni del 900, con sullo sfondo c'è il grande dibattito anche sui fondamenti della matematica, perché Cantor elabora la teoria degli insiemi, no? E Hilbert il programma formalista, eccetera. Cosa c'è al fondo? Beh, al fondo di tutto questo direi c'è intanto sì, c'è una componente di piacere, c'è però prima di tutto direi un'istanza di rigore che ha un po' a che fare anche con gli inizi di quella stagione moderna alla quale è capitato di fare riferimento menzionando Giordano Bruno. La metterei così: uno dei tratti con cui il tema dell'infinito, dell'illimitato irrompe nel cuore dell'esperienza ordinaria, nella quale ci orientiamo bene attraverso la distinzione parte tutto, per esempio, come dicevo prima, no? È il modo in cui è il fatto che mette a contatto con quello che apparentemente è Ariston, dicevo prima, l'indeterminato, e quindi ciò che sfugge alla ragione, sfugge al pensiero. Allora è possibile ritrarsi da tutto questo, no? Infatti si è coniata la formula horror infiniti, come per altro verso horror vacui, no? Cioè l'infinito è ciò che dà le vertigini, dicevi prima, no? Al tempo stesso l'indeterminato può essere anche considerato come ciò che invece chiama la determinazione, proprio perché è indeterminato, impegna il pensiero al tentativo di introdurre determinazione, cioè introdurre rigore. Questo lo si vede bene, per esempio, anche agli inizi della scienza moderna, in cui c'è, diciamo storicamente, un'esperienza che adesso c'entrano anche le ragioni teologiche. Sebbene non solo, c'entra il crollo della visione antica del cosmo, quella che Coiré chiamava il mondo chiuso, no? Lo squadernarsi dell'universo infinito. C'entrano vari fattori, ma al fondo precipitano verso la percezione di un rapporto di estraneità della mente rispetto alla natura. Si cita sempre l'anatomia del mondo di John Donne, no? All coherence is gone, ogni coesione se n'è andata. La nuova filosofia revoca tutto in dubbio. rinasce lo scetticismo. È stata il primo tipo di risposta. La seconda è stata quella di prendere il toro per le corna, e cioè provare a vincere l'estraneità come rigorizzando i sistemi razionali di comprensione. E non è un caso, citava prima Galilei, l'ipotesi galileiana che la natura sia scritta in caratteri matematici. Cioè, rispetto ad Aristotele, che nell'ambito delle scienze cosiddette, lui le chiamava teoretiche, distingueva rigidamente matematica e fisica, oltre alla filosofia prima, e pensava che in sostanza l'idea di una fisica matematica fosse avrebbe chiamato una metabasis eis allogenos, cioè un transito arbitrario da un genere all'altro. Altro è la dimensione della quantità, di questa si occupano i matematici, altra è la dimensione della physis, della natura, cioè del movimento, di questo si occupano i fisici. L'idea di usare la matematica come chiave di accesso, nonostante i pitagorici, nonostante Demone, Archimede più tardi, no, eccetera eccetera, rimane con Galilei, no? Solo che una volta che si comincia a pensare che il grande libro della natura è scritto in caratteri matematici, parte una rapporto di sollecitazione reciproca tra fisica e matematica, per cui i problemi di fisica sollecitano l'invenzio, grande parola leibniziana, l'invenzio di strumenti matematici più affinati, no? Allora, per esempio, se io devo descrivere la caduta di un grave, questa caduta a carattere continuo, io devo riuscire Leibniz ragionava in termini di lex continuitatis, no? E questo è stato decisivo, lo ha sollecitato come matematico all'elaborazione di una matematica che potesse calcolare anche intervalli infinitesimali, no? E questo è un modo di inseguire l'infinito? Questo, diciamo così, è un modo nel rigore. A un certo punto che cosa succede? Che lo strumento matematico va affinato, al tempo stesso l'elaborazione matematica lavora su di sé e scopre territori prima inauditi o comunque inediti, e per questa via approda scoperte nuove che è possibile che abbiano una ricaduta fisica, ma non è detto. Cioè, quando sono state scoperte, adesso io vado sempre Terreni, spero che lui mi corregga perché sennò andate a casa con gli equivoci e con gli errori, ma quando si scopre, citava Euclide prima, allora quando si sviluppano le geometrie non euclidee, uno dei problemi è stato, adesso abbiamo la geometria di Euclide, poi abbiamo una infinità di geometrie alternative rispetto a quella di Euclide, di vari tipi. Qual è quella che descrive al meglio lo spazio fisico? Ecco il problema della ricaduta. E all'inizio si è pensato sempre a Gauss, che abbia pensato di farlo attraverso degli esperimenti, e poi si è capito che in realtà il problema epistemologico è molto più grosso. Ma a un certo punto Einstein, nella teoria della relatività, incorpora una geometria che non è una geometria di tipo euclidea, o meglio, è un caso limite, no? Ma ha bisogno di incorporare una geometria di tipo non euclideo, no? Ecco un modo in cui allora l'interazione, all'insegna dell'istanza del rigore. All'insegna dell'istanza del rigore si va alla caccia dell'infinito anche attraverso le nuove applicazioni matematiche, nuovi modi di pensare alla matematica. Sì, dunque. Allora, dunque, cerchiamo di ragionare un attimo. Parliamo di meteorologia, almeno nell'ambiente a secco. Un esempio. Ora, l'aria della Terra è fatta da infinite molecole. Quindi un modo per capire cosa sono le previsioni, per fare le previsioni, è prendere e studiare tutte queste singole molecole e vedere come si muoveranno e si capisce quali sono le previsioni. Impossibile. Allora si dice, prendiamo che sia un corpo diversità variabile ma continuo eccetera, come fanno gli ingegneri quando fanno le strutture, loro non pensano al cemento armato sia con sassi, cemento, dei pezzi di ferro, pensano a una cosa omogenea di sezione rettangolare larga così che regge certi sforzi eccetera. Ecco, cioè, è una semplificazione della realtà, però poi si arriva a un risultato. Se invece dovessimo studiare la realtà in tutta la sua complessità non riusciamo ad arrivare a nessun risultato. Quindi è una semplificazione che ci è utile, insomma, ecco. Quindi questo, diciamo, quindi non è che la natura sia scritta in caratteri matematici, la matematica consente di interpretare la natura almeno per grandi linee, diciamo, in qualche modo, e di fare poi delle previsioni, di capire, eccetera, insomma, ecco. Ma questo non ha a che vedere con l'infinito. All'inizio potrebbe dire è composta da infiniti infinitesimi, ma è un infinitesimo ancora diverso dagli altri, cioè, perché in realtà non c'è dimensione, mentre l'atomo è qualcosa di piccolo ma consistente che non si riesce a schiacciare, se si potesse schiacciarlo. Il continuo no, non è nulla, si può stringere quanto si vuole, non c'è nulla di consistente, insomma, ecco, è solo, diciamo così, un modello matematico che non è reale assolutamente, insomma. Comunque, se posso dire un'altra cosa sorprendente sull'infinito, immaginiamo di avere un albergo che ha infinite stanze, questo è l'esempio di Hilbert, R1, R2, R3, eccetera, tutte le stanze, tutte prenotate da clienti, G1, G2, G3, eccetera. Quindi l'albergo è pieno, un albergo normale con 150 stanze, a 150 stanze prenotate, basta, pieno. Arriva un nuovo ordine di infiniti nuovi clienti, come se dicesse l'albergo 150 stanze, arriva un contare, guarda, ho 150 nuovi clienti che voglio vedere da te. L'albergatore dice no, grazie, siamo pieni, saturo, basta, non si può prendere più. Cosa invece propone Hilbert? Questi sono nuovi clienti, benissimo, prendiamoli tutti. Vuol dire che il vecchio cliente numero uno metteremo la stanza numero uno, il nuovo cliente numero uno metteremo la stanza numero due, poi il vecchio cliente numero due la stanza numero tre, e poi il nuovo cliente numero due la stanza numero quattro, e così li alterniamo e li prendiamo tutti, vecchi e nuovi. Operazione impossibile in realtà, possibile invece come concezione intellettuale della matematica. Nell'infinito. Nell'infinito, ovviamente nell'infinito. Oppure poniamoci un'altra domanda. Ci sono più punti in un segmento o in una retta? Uno direbbe, per poche storie, una retta è composta da infiniti segmenti, ci sono più punti nella retta che nel segmento. Ed ecco la sorpresa. Prendiamo un segmento che sia il diametro di una circonferenza, prendiamo un punto qualsiasi della retta, congiungiamo questo punto con il centro della circonferenza, questo segmento intersecherà la circonferenza in un punto Q, facciamo una proiezione sul diametro R, ad ogni P corrisponde un R, a due P diversi corrisponderanno due R diversi, ad ogni R possiamo far corrispondere un punto P, cioè su un segmento ci sono tanti punti quanti sono i punti di una retta, perché siamo nell'infinito. Allora, qual è la dimensione? Vedete, i punti che stanno molto qua giù, anche un segmento grande, va a finire un pezzettino piccolissimo qui, quindi si comprimono moltissimo quando si va verso gli estremi di questo segmento. È possibile questo? Se fosse un materiale umano, nel naturale nostro, per la compressione si distruggerebbe, ma nell'infinito si comprime e basta, e continua a esistere come prima. Quindi quando si va nell'infinito cambia tutto, non rimane più nulla rispetto a quello che pensavamo, prima. Si entra in un altro mondo. E concludo dicendo, ti invito la parola grossa, sì, sì, che va usata contro te, adesso poi parleremo degli altri. Allora, io non so se sarà possibile trarre una conclusione da quello che abbiamo detto, perché sono state dette cose anche piuttosto complesse da comprendere. Quello che però posso dire come impressione mia, allora, ascoltando il professore di matematica Bruno Firmani, io mi rendo conto che affrontare la questione dell'infinito mi confonde molte le idee, cioè mi fa percepire maggiormente la mia incapacità di concepire l'infinito in maniera molto strutturale. Quest'ultimo esempio del segmento che ha tanti punti quanto la retta dimostrato mi fa capire, capisco molto poco. La storia che mi esce dalle parole invece del professor Nobile mi racconta di una possibilità forse più accessibile ma forse più fumosa. Allora io chiedo a voi di trovare, se possibile, una conclusione. Ho nominato l'istanza del rigore. Esattamente. Però voglio dire, io capisco di più la storia che mi racconta lei, nel senso che mi è più consona forse mi illude di più, forse mi illude di più, però è un po' più mia. Qui, di fronte all'infinito, rigorosamente dimostrato come incomprensibile, mi sento un po' escluso. Allora, sono le 7:15, vogliamo dire un qualcosa su questa mia impressione, che è puramente mia. No, ma è un'impressione del tutto letta, dico io? No. Sì, è un'impressione direi del tutto legittima e ha a che fare con quello che così suggerivo in sede di impostazione del discorso. Cioè, abbiamo all'opera, in vario modo e a vario titolo, questa distinzione finito-infinito. Adesso con le distinzioni anche lessicali nascono proprio perché bisogna sciogliere situazioni che altrimenti sono paradoxon, cioè fanno troppo a pugni con la nostra doxa, con la nostra e poi c'è una possibilità di analisi che è quella che va a vedere su quali diversi piani questa distinzione ha agito nello sviluppo del pensiero e ancora oggi. E non necessariamente questi piani debbono interferire o interagire gli uni con gli altri, nel senso che conquistano poi nel tempo una propria specifica autonomia. Esiste, credo, non lo so, ma credo di poter dire, una autonomia del ragionamento matematico rispetto anche al problema delle possibili ricadute sul piano della fisica, dell'esperienza. Cioè, a un certo punto lì si costruisce un linguaggio che, diciamo così, assume i propri, si dà i propri, accennava al tema della definizione, cioè si dà i propri vincoli, costituisce i propri postulati, no? Elabora i propri calcoli e si genera uno spazio teorico che è lo spazio della matematica. Esiste una dimensione, come si può negare, avete cominciato il ciclo proprio da questo, in cui la distinzione finito-infinito diventa una distinzione chiave per pensare il rapporto fra Dio e il mondo. E siamo sul piano religioso. Ci sono pensatori, cito solo Cusano, visto che siamo vicini, insomma, in cui c'è il tentativo di usare, ma chiaramente, le analogie o chiave metaforica di tipo matematico per pensare il rapporto fra il creatore e la creatura, contrazione, espansione, eccetera. Grande, a suo modo, grande matematico, no? E quindi ci possono essere queste interferenze. Esiste il problema, diciamo così, sul piano della fisica. Esiste un tipo di riflessione in cui la filosofia, diciamo così, ha utilizzato la dicotomia finito-infinito, adesso la dico così, per pensare la condizione umana. E non è detto che questo si lasci matematizzare, no? Guarda caso, la conclusione nel mio caso è quasi identica, o pressoché identica, a quella del collega matematico, cioè usare con una certa cautela il riferimento all'infinito, nel senso che per molto tempo la filosofia ha cercato di pensare, qui mi riferisco alla condizione umana, la condizione di finitudine dell'uomo, a partire dalla questione della mortalità privilegiata, ma anche quella dell'inizio, della nascita, rispetto alla quale la nostra finitezza è nel fatto che non era in nostro potere, ci viene da altro o da altri. Ma ha pensato la finitudine suggerendo l'idea che la verità del finito sta nell'infinito, cioè in ultima analisi in Dio. E si potrebbe argomentare che in questo c'è un elemento nichilistico, cioè che della verità e del finito è nulla se essa non viene salvata ad opera dell'infinito, se essa non viene, per così dire, assolta dalla sua finitudine, per essere diciamo così pienamente realizzata nell'aldilà, nell'immortalità, no? E via dicendo. Molto meno frequentato è stato dalla filosofia l'idea che invece si possa, forse si debba, pensare la finitudine come finitudine radicale, cioè una filosofia della finitezza in quanto finitezza, che non pensa necessariamente la finitezza solo come amputazione dall'infinito, ma come condizione di possibilità finite, Da prendersi e da secondo misura. perché spesso pensarsi secondo ipotesi di tipo infinitistico ha prodotto nella storia grandi danni. Ecco, la metto così. Prego. Il discorso è stato scivoloso, insomma, penso un po' dalla matematica, però è indispensabile. Allora, è chiaro che l'infinito è un parto della mente umana. Abbiamo concepito questo infinito anche da filosofia, non solo matematica, insomma, l'infinito, ci piace questo infinito. E già prima il collega, l'infinito è un attributo di Dio. Quale infinito? Perché poi non ho finito di più tutto, non ho detto tutto, i punti di un segmento sono mettibili nelle scatole come le palline oppure no? No, l'ha dimostrato Canto, sono di più, sono molti di più, quindi non esiste un solo infinito, quello delle palline e delle scatole, c'è un altro infinito che è quello dei punti di un segmento e c'è un altro infinito ancora, non sto anche a dire di quale infinito vogliamo parlare, di cosa parliamo. Allora, quando si dice, quando si dice è un attributo di Dio, cosa vuol dire? In che senso? Quale infinito? Infinitamente giusto? Un'entità infinitamente giusta, come si comporta? Noi siamo uomini, quindi siamo finiti. Come vediamo, quando si va sull'infinito, cambia tutto. Come sarà un infinitamente giusto? Un infinitamente giusto punisce sempre, perdona tutti, cosa fa? Non lo possiamo sapere noi che siamo finiti. Come si comporta? Un infinitamente buono, come si comporta rispetto a noi che a volte se ci va bene, se è un amico lo aiutiamo, se è un nemico lo aiutiamo a cadere? È volubile? È sensibile alle richieste oppure fa quello che pensa lui e basta? Se pensa quello che se fa quello che pensa lui e basta, che senso ha pregare? Cioè, noi abbiamo umanizzato qualcosa, cioè reso finito un qualcosa che invece è infinito, quindi è su un altro piano, un'altra dimensione, un'altra cosa completamente diversa. Su cui vale però la pena ragionare. Come matematici. Certo, su cui varrebbe la pena ragionare, però tenendo conto che siamo di fronte all'infinito, di quei fenomeni che hanno infinite palline in ogni scatola, cioè infinite palline scatole vuote, cioè può essere di tutto. Cosa sarà? Da questo punto di vista io ritengo, se posso dire per opinione, che abbiano ragione i protestanti. Dicono, non lo so, te la vedrai con lui, per quanto mi riguarda, è finita, non dico nulla. È molto più sana dal punto di vista logico, composizione. Ve la vedrete voi. Tu sta attento perché poi no, io non so niente. Ed è questa la verità. Di fronte all'infinito, i ragionamenti umani finiti cadono. Sono puerili, non hanno senso. Come se avessi 10 scatole e 10 palline di realtà a metterle. Come posso concepire l'idea di mettere 10 palline in una delle 10 scatole e rimanere con 10 palline in mano se ho solo 10 palline e 10 scatole? Eppure è così nell'infinito. Quindi è uno stravolgimento completo della nostra mentalità. E se permettete di citare Pirandello. Ed ecco, signori, con parla la verità. Siete contenti? Grazie. Io non so se c'è qualcuno che vuole fare una domanda dopo avervi esauriti, spero non definitivamente, su queste tematiche. Come vedete hanno prospettive effettivamente anche diverse e in alcuni casi convergenti. È sempre ragionamento, anche se diciamo che ho percepito più il pragmatismo del trascurabile. Io mi ricordo quando andavo al liceo, la professoressa di fisica diceva: ma questa è una grandezza trascurabile, cioè si può fare a meno, si campa comunque. E forse questo trascurabile non è così trascurabile magari in un'altra disciplina, però entrambi siete consapevoli che c'è un margine di trascurabilità in alcuni casi, così bypassato, dentro che sono termini in inglese, in altri casi invece vale la pena scommetterci o spaccarci la testa. Non so se qualcuno vuole dire, vuole fare una domanda in chiusura, se no la chiudiamo qua. Grazie. Grazie a voi. Sono Mauro Nove. Grazie per essere venuto a Mario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.